Europa 24. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. In primo piano l'Europa e l'Italia che sono allineate nella frenata dell'inflazione a marzo. Continua a vedere rallentare il livello dei prezzi la zona euro, giù a marzo dello 0,5%, ancora in calo rispetto allo 0,7% di febbraio, prezzi che scendono via via seguendo una tendenza registrata a partire da novembre 2013, quando erano allo 0,9%. L'Eurostat lo rileva nelle stime preliminari sull'inflazione nell'eurozona, ricordando che un anno fa, a marzo 2013, il tasso di inflazione era all'1,7%. L'ulteriore rallentamento dell'inflazione a marzo è determinato dalla riduzione della crescita dei prezzi alimentari, alcolici e a base di tabacco, che sono cresciuti in media dell'1% rispetto all'1,5% di febbraio. Anche i prezzi energetici sono in calo del 2,1% a marzo, anche se meno che a febbraio. Invece nei servizi i prezzi sono aumentati a marzo, però meno che a febbraio. E in Italia a dare il quadro dell'inflazione è l'Istat, che anche qui dà ancora segnali di rallentamento. L'indice per l'intera collettività rispetto a febbraio 2014 sale appena dello 0,1%, mentre è cresciuto dello 0,4% su base annua, contro lo 0,5% di febbraio. Si tratta del dato più basso da ottobre 2009 e in soli 5 mesi, rileva l'Istat, la crescita dei prezzi si è così dimezzata. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il trionfo della destra nelle amministrative in Francia. La destra gollista è il primo partito, crollano i socialisti che però conservano la loro leadership nella capitale. A Parigi il fronte nazionale della Le Pen si piazza al terzo posto e conquista oltre 10 comuni. E con il rafforzamento della Le Pen cresce anche l'avanzata in molte parti d'Europa di una destra euroscettica. Ecco la mappa in questo servizio, nazione per nazione. L'euroscetticismo è un virus che ha contagiato tutta l'Europa. Sono pochi i paesi che non manterranno a Strasburgo degli eletti pronti a dichiarare guerra all'Unione. In Francia, Olanda e Austria i sondaggi danno per favorite, seppure di misura, le formazioni di estrema destra. Il Front National di Marine Le Pen, il Partito della Libertà di Geert Wilders e l'FPO austriaco che fu di Haider. L'alleanza costituisce il nucleo duro di quel progetto che punta a creare un gruppo euroscettico e di estrema destra al nuovo Parlamento europeo. Un progetto a cui sono pronti ad aderire anche la Lega Nord e i belgi fiamminghi del Vlaams Belang, che potrebbe portare a triplicare rispetto ai 32 di oggi il numero dei seggi del gruppo. A sinistra invece la palma dell'euroscetticismo va alla lista Tsipras, che non vuole un ritorno alle divise nazionali ma che ha una posizione assai critica nei confronti della moneta unica europea. Il giovane leader ellenico potrebbe trainare con sé anche la sinistra del Portogallo, Irlanda, Repubblica Ceca e Lettonia. Dalla Germania invece i neonazisti della NDP potrebbero arrivare per la prima volta al PIE e con loro anche altre formazioni xenofobe neofasciste come i greci di Alba Dorata, i bulgari di Ataka, gli ungheresi di Jobbik, partiti considerati troppo radicali anche da Le Pen, che punta decisamente ad accreditarsi come il centro dell'estrema destra. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Parlamento greco ha approvato il multidisegno di legge sugli accordi raggiunti tra il governo e la Troica, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, BCE, che permetterà all'Eurogruppo di dare il via libera all'assegnazione della tranche da oltre 10 miliardi di euro di aiuti al Paese. L'Eurogruppo, lo ricordo, si riunisce domani ad Atene. Nel 2013 diminuisce nell'Unione Europea per il secondo anno il numero dei decessi provocati dagli incidenti stradali. Se la media europea è di 52 morti per milione di abitanti, l'Italia al di sopra con 58 vittime. In Europa nel 2013 il numero di decessi è diminuito dell'8% rispetto al 2012, dopo una riduzione del 9% nel 2012-2011. In Italia si è avuto un calo del 6% sul 2012, del 5% tra il 2011 e il 2012. I paesi con il minor numero di vittime restano comunque Regno Unito, Svezia, Olanda, Danimarca, con circa 30 decessi. È tutto, vi saluta per Europa 24 Daniele Biacchessi. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.